Arriva sugli schermi italiani la Palma d'Oro del Festival di Cannes. Amour di Michael Haneke è un viaggio nel dolore e nella forza di una coppia di anziani devastata dalla malattia, con due immensi attori, Emmanuel Rivat e Jean-Louis Trintignant. Weekend d'autore anche per il cinema italiano. Un fratello, una sorella, una cantina. Sono gli elementi di Io e te, tratto dal libro di Nicolò Ammaniti e firmato da Bernardo Bertolucci. Storia di una finta fuga per passare la linea d'ombra. Alla Rosa Purpurea, la protagonista Thea Falco, nuova scoperta del regista emiliano. E se un politico corrotto e corruttore cominciasse improvvisamente a dire tutta la verità? Ecco Viva l'Italia, la corruzione, gli sprechi, il clientelismo e il paese che si oppone e che resiste. Nel cast Michele Placido, Raul Bova, Ambra Angiolini e Rocco Papaleo, nostro ospite. Torna Oliver Stone, ma sembra Tarantino. Il regista di Wall Street torna a raccontare assassini nati. Taylor Kitsch e Aaron Johnson sono due produttori di marijuana di fronte all'avanzare dei narcos messicani. Due ore di sangue, sudore e lacrime. Completano il cast John Travolta, Blake Lively, Benicio del Toro e Salma Hayek.